e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, eccoci, buongiorno a voi, buongiorno a Deborah. Facciamo subito il domandone, vi siamo mancate? Molto, tu ecco. Mi sei mancata, però ritorno e ti trovo bella come il sole, abbronzata. Come il sole nonostante, 24 ore. Nonostante tu sia già al lavoro da 2 settimane. Sono già operativa da un bel po', sì, però... così il rodaggio è stato un po' meno doloroso, no? Il recupero è stato più lieto. Ti senti bene? Mi sento abbastanza bene, anche se abbiamo dovuto gestire tutta l'emergenza del terremoto, e quindi professionalmente parlando è stato un periodo abbastanza impegnativo, sia fisicamente che professionalmente, insomma. E adesso quindi noi ripartiamo. Riparte Cuore Denari con i soliti consigli dal punto di vista della salute, dal punto di vista del risparmio e investimenti. Sarà un anno ricco di novità. Esatto, senti un po', c'è però l'ambrosia che mi dà qualche fastidio in questi anche giorni. L'anno scorso, come vero? Gli ascoltatori possono ben sentire dalla mia voce nasale, posso fare qualcosa? Allora, questo è il periodo clou, perché l'ambrosia, come sapete, fiorisce dalla fine di agosto fino anche alla prima metà di ottobre, e questo è la prima quindicina di settembre, è proprio il periodo in cui può dare maggiori problemi. Spesso però chi è sensibilizzato ai pollini di ambrosia non soffre di altre forme di allergia, quindi questa potrebbe essere una buona notizia, ma attenzione a evitare l'assunzione di camomilla, che so, l'olio di semi di girasole, anche il tarassaco, anche se non so se sia ancora stagione, perché danno quello che viene chiamato allergia crociata con i pollini di compositi. Allora il consiglio è: se avete lacrimazione agli occhi, fate fatica un po' a respirare, il naso che cola, non avete ancora ricevuto una diagnosi e soprattutto avete quegli occhi che vi sembrano un po' quella congiuntivite, andate a piano a fare il classico impacco con la camomilla, perché se foste allergici all'ambrosia potreste avere dei problemi, per cui la camomilla, attenzione, tenetela da parte. Però qualche consiglio invece per riprendere il ritmo? E beh, è una puntata classica, no? Quando si rientra, consigli, lo sappiamo sempre che facciamo un po' fatica, vogliamo riprendere il passo, non è sempre facile. E a io... Londra succede una cosa di interessante, dobbiamo trasferirci, secondo te? Dobbiamo andare là? Abbiamo letto che la Transport for London, la società che gestisce la metropolitana di Londra, invita i sudditi di Sua Maestà ad andare a piedi. Per essere il più convincente possibile, la società ha stampato una mappa della metro che indica la distanza tra le stazioni in passi, per dimostrare che molti punti della città sono raggiungibili facilmente a piedi. Io suggerisco ai nostri ascoltatori che vivono in città dove c'è una rete metropolitana di adottare, di seguire questo consiglio, e sicuramente un po' la linea ci guadagna. Assolutamente, e non solo. Sì. Partiamo intanto con notizie di denari. Ripartiamo con la consueta modalità delle notizie che riguardano i mercati finanziari. Allora, la partenza della settimana appare buona: Parigi sale dello 0,48%, Francoforte più 0,35%, Londra invece leggermente negativa, Milano miglior piazza d'Europa più 0,7%. Ricordiamo che oggi è intanto una giornata che si confronta ancora con il G20 cinese. Tutte le indicazioni che stanno emergendo da questo importante summit dei capi di Stato e di Governo e non solo. E poi oggi è chiusa Wall Street per il Labor Day, la giornata dedicata al lavoro, per cui dagli Stati Uniti non arriveranno indicazioni particolari, però noi gli Stati Uniti guardiamo sempre, perché ovviamente cercheremo di capire, questo mese è cruciale, per cui seguite con attenzione anche i nostri appuntamenti di Investire Informati. C'è la Federal Reserve pronta ad alzare i tassi di interesse, ma visto che il rapporto del mercato del lavoro venerdì non è stato particolarmente buono, probabilmente ancora una volta questo aumento dei tassi verrà rinviato. Tornando invece a Piazza Affari, una carrellata rapida dei migliori titoli e dei peggiori. Corrono tutti i bancari, ma non solo, in particolar modo le popolari, sono queste due che devono aggregarsi. Il Banco Popolare e la Popolare di Milano salgono di 3 punti e 4 punti percentuali, va bene anche il colosso del risparmio gestito, Azimut, il gruppo assicurativo Unipol più 2%, e poi tutti i titoli petroliferi in rialzo. In negativo ne abbiamo pochi e perdono anche poco: Campari meno 0,4, A2A meno 0,16, Salvatore Ferragamo meno 0,14%. Sul mercato delle valute, rapporto tra euro dollaro a 1,1174, giovedì un altro meeting della Banca Centrale Europea e sono attese nuove iniziative di stimolo monetario da parte di Mario Draghi. Allora, dopo le meritate ferie estive nel mese di settembre, ricomincia per tutti il nuovo anno scolastico, non solo per noi, Nicoletta, ma anche per tutti i bambini all'ascolto. Allora, che si preparano a fare la cartella, sono lì che comprano zaini. È ancora leggera, passi, perché poi dopo comincia il carico da 90 sulle schiene di questi poveri ragazzi. Allora, la prima campanella suonerà, a seconda delle regioni, tra oggi e il 15 settembre. Già da un paio d'anni alcune regioni, per facilitare la programmazione, hanno adottato il calendario permanente, cioè quello che resta invariato negli anni a seguire. E le regioni che hanno adottato il calendario scolastico permanente sono Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. I primi a tornare sui banchi sono stati oggi gli studenti di Bolzano. Lunedì 12 settembre riprendono le lezioni in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Il 14 è la volta di Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna e Sicilia, gli ultimi a rientrare. Il 15 settembre saranno gli studenti di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, quindi anche i miei nipoti, e Puglia e Toscana. L'anno scolastico inizierà regolarmente, la mobilità l'abbiamo gestita nella sua complessità. Queste sono state le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che è stata interpellata sulle critiche al piano di mobilità straordinaria dei docenti a margine dei lavori del forum di Cernobbio. Allora, di questo e di tutto quello che comporta per le famiglie l'avvio del nuovo anno scolastico, quindi, Nicoletta, questione di denari, ma non solo? Anche di salute, di apprendimento, di relazioni con i compagni, con i professori, con gli insegnanti, che spesso cambiano da un anno all'altro. Parleremo in una puntata speciale di Cuore e Denari mercoledì, con un pensiero speciale a tutti i bambini e gli insegnanti delle scuole colpite dal terremoto del 24 agosto. Si scalda il dibattito sulle pensioni. Allora, è stato fissato per lunedì prossimo 12 settembre un tavolo tecnico, quindi qua anche il governo torna sui banchi di scuola. Vedi, proprio in linea con i ragazzi e gli insegnanti. Un tavolo tecnico, dicevamo, che sarà seguito poi da uno politico il 21. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha assicurato, anche lui da Cernobbio, che il governo vuole dare il massimo su questo terreno, su questo argomento. I temi da affrontare al più presto: l'APE, l'anticipo pensionistico, definito il cardine di un pacchetto appunto sul settore, insieme all'aumento delle pensioni minime. E c'è anche un altro tema importante, quello delle ricongiunzioni gratuite. Già sono tre temi che dovremo affrontare al più presto a Cuore e Denari. Le ricongiunzioni gratuite sono la possibilità di riunificare senza pagare contributi versati a diverse delle casse previdenziali. Secondo quanto ha potuto anticipare appunto il ministro Poletti nel weekend, si pensa ad un'APE parziale da riservare in prima battuta ai senza lavoro e a chi fa lavori pesanti, per dare modo di andare in pensione prima con un anticipo di solo una parte dell'assegno. Un altro tema di risparmio, che è stato veramente un incubo per molti risparmiatori negli ultimi anni, sono scaduti venerdì scorso. Speriamo quindi che non vi siate persi questa occasione, mi riferisco ovviamente ai diretti interessati, non a tutti i risparmiatori, i termini per aderire alla cosiddetta offerta standard del governo argentino, che riguardava tutti i titolari di obbligazioni Tango Bond, lo ricorderete, che non avevano accettato le proposte di scambio lanciate dal governo appunto di Buenos Aires nel 2005 e nel 2010, e non hanno appunto non avevano partecipato poi all'arbitrato ICSID mediante la Task Force Argentina. Ricordiamo che Buenos Aires ha accettato di pagare un importo del 150% del valore nominale dei titoli. La differenza fra la somma rimborsata e il costo di acquisto del titolo sarà tassata al 12,5%, proprio come i titoli di Stato. L'ultima notizia di denari, e allora tutti ormai più o meno, anche se c'è chi si è ricavato, esatto, una bella vacanza di settembre, che ti devo dire che a me piacerebbe farla prima o poi. Sì, le giornate però sono più corte. A ottobre l'anno prossimo. Sì, però le giornate sono più corte, c'è un po' l'effetto presepe, quando vai torni dalla spiaggia, vedi già le lucine. Però dai, perché no, una volta vabbè, magari si va in una località. Sto cercando, in tutti i modi. Di trattenermi qua, vuoi che me ne vada? Di pensare che è bello tornare. Innanzitutto è bello per chi ha un lavoro. Ecco, questo già, ecco, la ripresa dovrebbe. Però è carino, no? Tutti hanno ripreso a lavorare dopo la pausa estiva, quasi tutti. Ecco subito che le associazioni dei consumatori hanno stilato la lista dei disagi più diffusi e lamentati dai vacanzieri. Allora, il Codacons ha proprio stilato una top 10, i disagi più diffusi, i 10 più diffusi. Allora, la prima lamentela che i consumatori appunto hanno rivolto proprio all'Associazione dei Consumatori è quella che riguarda il cibo negli alberghi. Molti hanno lamentato quest'anno scarsa qualità del cibo fornito proprio dalle strutture alberghiere, con croissant e brioche non fresche, frutta non matura o non fresca, in genere appunto con poca scelta. Quindi in primo luogo il cibo, eccoci qua. Però poi non piace, però adesso noi abbiamo già degli ascoltatori che ci hanno scritto: quando parlate di dieta sono allora ho preso 3 kg, ho preso 4 kg, si tira sulla cerniera. Cattivo, ma se magna. Il libro del metabolismo del dottor Speciali ce l'abbiamo in scrivania. Seconda lamentela: bagni nei campeggi, problematica comune a molti, bagni sporchi e molte volte con carta igienica assente, quello sì che è un bel problema. Poi gli altri ve li racconto velocemente: ritardi dei treni, il wifi negli alberghi che sembra una tragedia quando manca, l'aria condizionata nelle stanze, servizi extra assenti, per esempio magari c'è un annuncio a cui abbiamo aderito perché quella località che abbiamo raggiunto, quell'albergo, ci consentiva di noleggiare biciclette o quant'altro, poi andiamo lì e questo servizio invece non c'era, convenzione con ombrelloni della spiaggia mancante, mancanza di forno bombola del gas nell'appartamento, mancanza o ritardo aereo e quant'altro. Insomma, una volta rientrati a casa, se avete voglia di lamentarvi per uno di questi disservizi, avete 10 giorni di tempo per farlo, lavorativi, per inviare un reclamo con richiesta di rimborso a mezza lettera raccomandata, da inviare o all'agenzia di viaggi, al tour operator e per conoscenza anche ad un'associazione dei consumatori. E adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade. Torniamo subito dopo insieme con la rassegna stampa delle notizie che riguardano la salute. Intanto restate con noi. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Cuore e denari. Allora, prendiamo un bel respiro e iniziamo anche noi la nostra rassegna stampa di Cuore di oggi. E a proposito di aria, torniamo a parlare di inquinamento, perché per molte persone il rientro coincide con un ritorno in città. E l'aria delle città, delle nostre città, è sempre più inquinata. Bene, noi sappiamo quanto la qualità dell'aria pesi sulla nostra salute. Ci sono nuove ricerche che hanno indagato danni nuovi. Ne parliamo con il professor Alberico Catapano, presidente della Società Europea per lo Studio dell'Aterosclerosi, ordinario di farmacologia all'Università di Milano e presidente della SISA. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Professore, l'aria è vita, non è solo un modo di dire, l'aria è anche la qualità dell'aria pesa sulla nostra salute, questo è intuitivo, no? Ma i danni noti ne avete scoperti altri? Sì, direi di sì, oltre ai danni noti che sono quelli a livello polmonare, il particolato fine, in particolare quello a PM2,5 inferiore, provoca anche un'infiammazione cronica a livello dei vasi, peggiorando l'aterosclerosi vascolare. E questo si associa al livello di colesterolo alto, un altro fattore di rischio, e quindi insieme fanno un danno superiore. Quindi possiamo dire che l'aria inquinata incide sulla salute del cuore e del cervello. Tra l'altro, professore, città che vai, aria che trovi, avete fatto un po' una mappa delle città italiane, dove alcune in particolare mettono più a rischio la salute del nostro cuore. Sì, certamente, questo è noto, per esempio tutta la pianura padana è esposta per motivi orografici ad avere livelli alti di inquinamento, mentre per città tipo Roma, per esempio, hanno un inquinamento inferiore, quindi se paragoniamo Roma-Milano, conoscendo i livelli di colesterolo medio in queste città, possiamo tranquillamente dire che i soggetti che vivono a Milano hanno un rischio più alto, ahimè, perché questi due fattori si sinergizzano. Quindi i milanesi potrebbero avere il colesterolo più alto dei romani per colpa dell'aria inquinata, professore? No, è più che i milanesi hanno un colesterolo più o meno elevato, la distribuzione è più o meno la stessa che a Roma, ma hanno aria più inquinata, quindi mettendo assieme i due fattori di rischio a Milano il rischio di avere aterosclerosi più alto. A proposito di colesterolo, in questi giorni nel corso del congresso della Società Europea di Cardiologia sono state presentate le nuove linee guida che sottolineano anche i valori da non superare. Sappiamo che il colesterolo, c'è un valore per il colesterolo totale, uno per quello buono, uno per quello cattivo. Professore, ripassiamo i numeri. Allora, il colesterolo totale dovrebbe essere inferiore a 190-200 mg per litro. Quello cattivo dipende dal rischio cardiovascolare, comunque è bene averlo inferiore a 100 o 115 se il rischio è molto basso, milligrammi decilitro. Il buono, quello HDL, invece dovrebbe essere superiore ai 45 nell'uomo e meglio a 50 nella donna. A questo proposito, sul nostro sito trovate, abbiamo messo un link alla SISA per andare a vedere la dieta suggerita per tenere sotto controllo il colesterolo. Sappiamo che la dieta incide solo in parte, ma sicuramente correggere il nostro stile alimentare può essere utile. Professor Catapano, noi ci sentiremo presto perché anticipo che dal 19 al 24 settembre ci sarà la terza settimana nazionale del colesterolo e quindi i nostri ascoltatori potranno sottoporsi a dei controlli e noi lo ricorderemo. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Buona giornata. E noi proseguiamo parlando di cervello. Ci sono delle speranze per la cura della malattia di Alzheimer. Un nuovo farmaco sarebbe in grado, pensate, di ridurre in modo significativo l'accumulo di proteina beta-amiloide nel cervello, che è una proteina che è considerata causa delle demenze e dell'Alzheimer. Noi commentiamo questa notizia col professor Pietro Cortelli, neurologo all'Università di Bologna. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, allora, il farmaco in questione si chiama aducanumab, è un anticorpo monoclonale che per così dire insegna al sistema immunitario a riconoscere le placche e al tempo stesso ne riduce l'accumulo. Allora faccio una premessa, premesso che la sperimentazione è ancora nelle prime fasi, il numero dei pazienti su cui la terapia è stata testata è piccolo e quindi occorrerà verificarne la sicurezza e gli eventuali effetti collaterali, professor Cortelli, mi sembra di percepire un certo entusiasmo, tanto che il farmaco ha guadagnato addirittura la copertina di Nature. Ci stiamo avvicinando alla cura per l'Alzheimer? Dunque, certamente questo è un passo cruciale, un passo molto importante nella ricerca, però come sottolineava lei bisogna essere molto cauti perché lo studio era stato disegnato per dimostrare che questo anticorpo passasse la barriera ematoencefalica, che vuol dire in sostanza che possa entrare nel cervello ed agire, sì. Perché c'erano stati altri tentativi con anticorpi simili che non avevano dato risultati positivi, e proprio perché probabilmente non riuscivano a entrare in maniera significativa dentro il cervello. Quindi questo è stato uno studio preliminare per dire che questo anticorpo entra nel cervello ed agisce su quella proteina che abbiamo chiamato beta-amiloide. Però non è stato disegnato per avere dei dati clinici precisi, cioè dire guardate che tanta beta-amiloide si riduce tanto migliora il quadro clinico, no? Che è quello che interessa ovviamente al medico e soprattutto ai pazienti. Però indubbiamente questo è un passo cruciale che ci dice che è un farmaco potenzialmente molto utile su una teoria che è quella appunto della beta-amiloide che oggi diciamo è quella più accreditata, cioè che questa proteina avendo una conformazione particolare, modo diciamo di non rimanere solubile nel citoplasma delle cellule nervose, la sua deposizione sarebbe l'inizio della cosiddetta neurodegenerazione. Quindi poter attaccare quella proteina in maniera così specifica, soprattutto non avendo, come sembra che questo studio dimostri, particolari effetti collaterali, rappresenta chiaramente una cosa così importante da guadagnare la copertina del più importante giornale di scienze del mondo che è Nature. Torno a dire, c'è tanto entusiasmo perché è la prima volta che si hanno questi risultati, adesso si aspetta lo studio. L'altro limite di questo studio che è stato fatto solo negli Stati Uniti, e quindi bisogna vedere insomma anche se sono soprattutto gli studi internazionali, multicentrici, con tanti centri che partecipano, che alla fine danno quella variabilità, certo, della malattia sulla quale si può fare un giudizio diciamo più accurato. Però indubbiamente diciamo l'inizio è molto buono e promettente. Il banco di prova sarà capire se riuscirà a far regredire anche i sintomi della malattia, perché questo è un po', no, quello che ci si attende farmaco. Professor Cortelli, torneremo sicuramente a parlarne perché tra l'altro l'Alzheimer è una sfida importante, sì. È una malattia che è molto invadente, che riduce la qualità di vita, anche ha un costo sociale molto alto. alto. Tra l'altro, entrambi i candidati alla presidenza americana, Hillary Clinton e Donald Trump, hanno messo proprio l'Alzheimer tra le priorità di cui intendono occuparsi. Professore, tutte le civiltà, le società occidentali, sì, avranno, che hanno allungato l'età media, avranno a che fare con soprattutto il concetto di invecchiamento cerebrale. E di questo, professor Cortelli, toccherà parlarne presto, e quindi la prenoto per una prossima puntata. Intanto le auguro una buonissima giornata. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. A settembre mi dirai quanti amori. Eh sì, è vero, Deborah, settembre sì, è il vero inizio d'anno. Molto più che gennaio, no? Si fanno progetti, programmi, organizzi l'agenda, vado, mi iscrivo in palestra, una volta, un pomeriggio alla settimana lo dedico a... Risparmio un pochino di più rispetto a quanto non ho fatto nel resto dell'anno, insomma tante cose. E allora, 800 24 00 24, intervenite, mi raccomando, raccontateci, potete farlo anche via WhatsApp al 349 238 6666, diteci... che cosa vi come affrontate questo settembre e cosa vi pesa di più, dove pesa di più, sul vostro fisico, sulla vostra mente, sulla vostra modo di organizzare funzioni cognitive, concentrazione, attenzione, o sul vostro portafoglio? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Allora, oggi sicuramente siamo belle, molti ascoltatori, Deborah, hanno visto la foto, l'abbronzatura. Guarda, fa la differenza, ancora speriamo di tenerla per un po'. Ecco, perché il colore che ci lascia l'estate ci rende subito belli, e in realtà l'abbronzatura, l'abbiamo detto tante volte, è un meccanismo di difesa della nostra pelle, ma tant'è che abbronzati sembriamo tutti più giovani, più carini, più in forma. Professor Di Pietro, buongiorno. Buongiorno. Direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, gruppo ospedaliero San Donato. È abbronzato, professore, anche lei? Ci manda? Sì, direi quanto basta, anche perché il sole tutto sommato non è che sia poi un grande nemico, anzi, noi siamo animali diurni, quindi il sole fa parte della nostra esistenza, un po' di sole fa bene, quindi anche un po' di abbronzatura tutto sommato aiuta, aiuta, mamma mia, se quel aiuta, che è giusto. Con lei oggi proveremo a capire come prenderci cura della nostra pelle per mantenere i benefici dell'estate, per riparare qualche danno, preventire eventuali problemi. Poi affronteremo con un altro suo collega, il professor Barbanti, l'aspetto più della mente, come facciamo a concentrarci, a riprendere il passo, a stare attenti, perché sembra che il cervello sia rimasto in vacanza. E poi, come sempre, cogliendo un po' l'invito del gestore della metropolitana londinese, riprenderemo il passo. Adesso torneremo tutti sedentari e a farne le spese sarà il lato B, ma ci sono dei trucchetti. Ma andiamo per ordine, professore, con lei andiamo di fronte allo specchio, anzi specchio, non... Quali sono i segreti, perché questo vogliamo saperlo, per mantenere l'abbronzatura il più lungo possibile e per non farla in qualche modo diventare un po'... sa, un po' grigetta. Grigetta o anche a chiazze, leopardata. Ecco, leopardata. No? Questa è la domanda più frequente che viene fatta in questi giorni. E dobbiamo ricordare che l'abbronzatura è questa quantità di melanina che si è stratificata sulla nostra pelle e le cellule la stanno trattenendo. Allora, noi dobbiamo cercare di mantenere compatte le cellule della nostra pelle, evitare la disidratazione, per fare in modo che questa compattezza protegga questa melanina che abbiamo prodotto. Innanzitutto, lavandoci, vanno evitate le lavate con acqua troppo calda, bollente, perché rompe i legami tra le cellule e quindi le perdiamo più facilmente. Quando ci asciughiamo bisogna tamponare, non sfregare con l'asciugamano, altrimenti c'è l'effetto scrub e quindi perdiamo più velocemente, certo, l'abbronzatura. Può essere utile utilizzare delle creme idratanti massaggiando, ecco, le leggere pressioni che possiamo esercitare con le mani quando mettiamo una crema, può essere utile per mantenere la pelle ancora più abbronzata perché si ossigenano i tessuti. Quindi applicare una crema massaggiando. Ecco, con questi consigli ci portiamo all'abbronzatura almeno fino a metà settembre, dai. Sì, direi di sì, ma anche con una buona alimentazione può essere utile. Tutto ciò che favorisce la circolazione, il microcircolo e quindi l'afflusso di sangue alle cellule fa sì che queste restino compatte e più vitali, per cui frutti di bosco vanno che adesso molto ci bene, sono freschi. Tutta la frutta colorata in generale che ci aiuta, compreso anche gli ortaggi, sali minerali a gogo, quindi delle belle insalate possono essere utili, con i semi di sesamo. Semi di sesamo perché sono ricchi di sostanze, l'acido gamma linoleico che aiuta a mantenere i legami tra le cellule. Vedi? E quindi la pelle più compatta, per cui la bronzatura quanti, rimane più a lungo. Quanti segreti, quanti consigli? No all'acqua calda, sì, no alle strofinate con l'asciugamano, una dieta che mima un po' quella che abbiamo fatto prima dell'estate per guadagnare una bella bronzatura, e aggiungiamo, mi raccomando, i semi di sesamo. Sì, professore, con il sole molte malattie della pelle si attenuano, migliorano, penso alla dermatite, anche la forfora in estate sembra sparire, anche malattie più severe come la psoriasi. Però poi con questi effetti benefici svaniscono e si entra in autunno. Insomma, siamo in un periodo molto delicato, anche le persone che soffrono di acne in questo momento magari grazie al sole hanno una pelle più pulita dai brufolini, ma si sa che poi anche i brufolini torneranno, magari le lesioni, la dermatite apparirà nuovamente. In questo sorta di interregno ci sono delle attenzioni da avere per prolungare il più a lungo possibile gli effetti del sole e quindi prepararci magari all'autunno in modo adeguato? Sì, oltre ai consigli in generale che abbiamo già dato, che sono utili anche per queste situazioni patologiche, tra virgolette, perché aiutano la pelle a mantenersi in equilibrio, possiamo beneficiare anche di sostanze che sono naturali e che riequilibrano la nostra cute. Ad esempio per la psoriasi, quando cominciano a riformarsi le chiazze di psoriasi, possono essere utili delle creme con acido salicilico che potrà prepararci il farmacista. Creme salicidiche che possono andare dal 2 al 10% e che il farmacista potrà prepararci. Per chi soffre ad esempio di acne, professor Di Pietro? Nel caso dell'acne ci sono delle ottime creme recenti che utilizzano ad esempio l'argento. L'argento sotto forma di ioni di argento possono essere utili per frenare un'acne che adesso a settembre, ottobre può ripresentarsi. Quindi creme che contengono questi ioni o microspugne, quelle più recenti sono delle microspugne di argento che appoggiate sulla cute disinfettano, frenano l'eccessiva crescita di batteri che sono sempre presenti in una forma di acne, unite ad altre sostanze che agiscono invece sul sebo, come ad esempio la lucina che di cui abbiamo parlato anche nei mesi scorsi a proposito della dermatite seborroica, che è un'altra forma frequente a ripresentarsi in questa stagione, possono essere utili e sono sostanze naturali che rimettono in equilibrio la pelle, la rinforzano per il prossimo autunno che sta ormai alle porte. Sì, ma nel frattempo godiamoci questo settembre che sembra che sarà un mese ancora soleggiato e quindi il sole di settembre comunque fa bene alla nostra pelle, può prolungare la bronzatura, ma anche possiamo godere di tutti i vantaggi di una adeguata e corretta esposizione solare. Sì, certo, e non dimentichiamo che la luce è importante per la nostra vita e di fatti di luce e di tipi di luce sempre di più noi dermatologi e chi si occupa anche di invecchiamento della pelle se ne sta interessando. Vuol dire che ci sono delle novità, professor Di Pietro? Direi proprio di sì. Allora, le novità riguardano appunto la luce, sì, soprattutto ci sono degli studi estremamente importanti, anche molto interessanti, che dimostrano l'azione dei vari tipi di luce sulle cellule della nostra pelle e sulle cellule in generale. Sappiamo che le luci che vanno sul blu, sull'ultravioletto, sono delle luci che possono frenare la crescita delle cellule, ma in grandi quantità possono essere anche dannose e distruggere le cellule. Sono anni che noi diciamo attenzione ai raggi ultravioletti. Ci sono invece delle luci con una certa lunghezza d'onda, e noi le vediamo sotto forma di colore rosso o giallo, che invece sono utili per la vita delle cellule. E difatti quando le cellule vengono raggiunte da questa luce, attivano di più la propria vitalità, producono più collagene, più elastina. E noi ultimamente stiamo utilizzando queste particolari luci per frenare l'invecchiamento con un'azione anti-aging, quindi anti-rughe, anti-macchie, migliore elasticità e così via. Ecco, diciamo che la nuova frontiera, le nuove cure per l'invecchiamento della pelle tendono ad utilizzare sempre di più negli ultimi tempi anche queste luci, quelle buone, diciamo, per la nostra cute, con dei risultati che sono estremamente interessanti. Luminosi, quindi ci aspetta un futuro luminoso, professor Sicuro, Di Pietro. Come sempre, con grande ottimismo. Grazie, professor Di Pietro. Alla prossima. A presto, buona giornata. Dalla pelle al cuore. Bello, eh? Allora, è dalla pelle al cuore, pensando agli amori che sono nati in vacanza per arrivare al cervello. È andato in vacanza anche il cervello, abbiamo staccato la spina, ci siamo divertiti. Ma adesso che torniamo al lavoro, che fatica, tutti gli anni è la stessa cosa. Tanto che una mia amica mi ha detto, sai che cosa ti voglio dire? Che io in vacanza non torno più, non vado più, perché è talmente faticoso riprendere che quasi quasi... Allora, non ero io comunque... In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno, ben ritrovate. Professore, siamo sempre qua, è una puntata classica qua, ma è inevitabile. Noi quando stacchiamo poi riprendere diventa sempre più difficile, la concentrazione, l'attenzione, insomma le funzioni cognitive sembrano ancora un po' addormentate. Tutto normale, tutto attorno come prima? Beh, intanto le vacanze ci fanno bene, beh, ci consentono di scoprire l'altra parte della vita che noi durante il periodo lavorativo facciamo finta di non vedere, che sono il piacere, e ricordiamo che gli studi più recenti sull'invecchiamento cerebrale dimostrano che non solo l'attività intellettuale stimola la vitalità del cervello, ma anche il piacere, e poi gli affetti, i nostri figli per esempio. E poi durante l'estate vediamo la vita con occhi diversi, quante volte diciamo, beh, adesso alla ripresa del lavoro questa cosa non la faccio più, la faccio meglio. Quindi sì, patiamo questo gradino del ritorno al lavoro, ma è un grande beneficio questo gradino, cioè noi non siamo retrocessi durante l'estate, siamo a mio modo di vedere saliti in una elaborazione migliore della nostra vita intellettuale, della nostra vita neurologica. Allora vorrei chiedere ai nostri amici di raccontarci qual è la difficoltà che incontrano nel riprendere a lavorare, fate fatica a concentrarvi, vi sentite rallentati, vi manca la voglia di fare, vi sentite un po' pigri, vi mancano un po' le parole. Oggi Deborah, cosa mi chiedevi che ti ho detto? Non è un po' troppo per il primo giorno di lavoro? Il nome di un esperto non mi veniva in mente. Ah, sì. Allora 800 24 00 24, sì, prima è vero? Sì, sì. Allora ci occupiamo di chi è andato in vacanza, ma anche di chi in vacanza non è andato e comunque quindi ha un po' di stanchezza accumulata sulle spalle e tra i neuroni, e però tocca riprendere il ritmo, perché a settembre tutto riprende, anche i nostri impegni tra risparmio, come dice fisco. Professor Barbanti, vogliamo fare delle tipologie? Ci aiuta a rimettere un po' il turbo? Beh sì, innanzitutto spiegare, non voglio eludere la domanda, perché abbiamo tutta questa fatica alla ripresa settembrina delle attività? Perché il cervello è tornato alla condizione per lui più congeniale durante l'estate. Qual è? Il minimo dispendio energetico. Noi, e sfido qualunque ascoltatore a dimostrare il contrario, lo dico con un po' così di supponenza, abitualmente stiamo molto attenti. L'attenzione vuol dire scrutare la realtà con un occhio inquisitorio, non lasciamo sfuggire nulla. Bene, noi d'estate facciamo retrocedere questo livello di esplorazione della realtà a un livello di vigilanza, e cioè guardiamo le cose essenziali della giornata, ma non monitorizziamo tutto. grande risparmio energetico, grande vacanza per il cervello. In realtà potremmo sembrare meno svegli, ma siamo più ispirati, sprechiamo meno energie. Ecco che tornando all'ambiente lavorativo, al tram tram della città in cui dobbiamo essere nuovamente attenti, beh, insomma, è come se siamo abituati a fare la passeggiatina a passo lento e ci costringono a correre. Quindi tutto fisiologico, ma non è un brutto segno. Professore, allora, quindi questo ci rassicura, riprenderemo sicuramente il ritmo, ma ci aiuta a dare un consiglio magari pratico, un esercizio da fare, un'attenzione per chi fa fatica a concentrarsi oppure nota di avere anche un po' di difficoltà a ricordare, a riprendere un certo metodo nell'affrontare la giornata lavorativa? Si sente un po' sperso, insomma, per dirla. Sì, beh, intanto cominciamo a dire che ciò che ci pesa non è poi esattamente il ritorno al lavoro. Quante volte anche i nostri ragazzi tornano a scuola, rivedono gli amici, vedere qualche collega, riprendere un pochino le attività ci può anche far piacere. Il grosso masso è pensare ad avere tanti mesi di fronte, un pochino come quando dobbiamo leggere un libro, studiare un volume molto grande, cavolo, non ce la possiamo fare. Beh, un trucco che deriva dalla neuropsicologia, ma anche dalla neurofisiologia, è intramezzare le abitudini invernali che dobbiamo fare, la scuola, il lavoro, con le abitudini estive. Quali? Noi pensate, usualmente sfruttiamo meglio gli orari extra lavorativi, perché siamo più all'aperto, parlava il professor Di Pietro, anche se le giornate stanno riducendosi di esposizione alla luce, siamo più conviviali, ci vediamo in maniera più informale con i nostri amici, andiamo a vedere i concerti, le grandi città, ma anche i piccoli centri, tra un festival di un tipo, uno dell'altro, più o meno politici o più o meno musicali, lo consentono. Quindi intramezzare il lavoro con parti ludiche fuori lavoro è una prima ottima cosa. La seconda, dovremmo un po' imparare dai nord europei, in particolare i tedeschi lo fanno molto bene, cioè pensare anche a fare non delle mega vacanze, ma a fine anno lavorativo, ma fare delle micro vacanze e pensare di programmare nell'autunno. Noi abbiamo un'Italia meravigliosa, dalle Langhe al Salento, weekend lunghi necessariamente non vuol dire spendere molto, ma vuol dire pensare di poter dedicare 48 ore o qualcosa di più solo a sé, si può mettere psicologicamente nella condizione di accogliere meglio il nostro rientro nell'attività, i nostri viaggi, le nostre alienazioni quotidiane, traendo ogni volta l'energia, perché di questo il nostro cervello, figlio così prepotente, ha tanto bisogno per andare avanti in maniera concentrata nella giornata. Professore, mi dà 3 alimenti salvacervello? Beh, guardi, cominciamo dal primo a cui sono molto attaccato, che è l'acqua. Io che bevo anche il vino. Sì. E noi, è un dato sconvolgente, 2 milioni di italiani tra i 18 e i 65 anni sono ipoidratati e gli anziani lo sono per principio. E l'acqua è uno spazzino fisiologico, ma soprattutto apporta nutrienti, sali, e è la base per le reazioni chimiche. Acqua. Secondo aspetto, direi alimentare, evitare il digiuno, che questa è la bruttissima pratica che noi facciamo poi in maniera d'inverno con micropasti, e in linea generale, questo l'abbiamo detto tante volte, anche il non penalizzare il cervello sotto il profilo dei carboidrati. I carboidrati faranno male per la ciccia, faranno male presi male, ma ricordarsi che, come dicevo una volta, il cervello ha bisogno di zuccheri, diciamo, non ha bisogno solo di proteine, è fondamentale. Quindi dimentichiamo diete strane che magari abbiamo fatto prima dell'estate, e quindi ricordiamoci anche di una dieta mediterranea che vede sulla nostra tavola la pasta ancora prima del riso, meglio se integrale, ma che è una fonte energetica, perché il cervello, se non lo carichi, non va. Professor Barabanti, grazie, faremo tesoro dei suoi consigli, delle sue indicazioni per continuare a investire in benessere e mantenere il nostro benessere. A presto e buona giornata anche a lei, buona grazie ripresa, voi, perché anche i Dutour devono riprendere, fanno fatica pure loro, anche il nostro dottor Confalonieri è in ottima forma, mi ha detto che le vacanze gli hanno giovato. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben noi facciamo tutti. tutti. Oggi con lei un lancio del dottor Confalonieri che tornerà domani. Perché la nuova disciplina sportiva, il lancio del Confa. Perché... Lanciatemi anche perché ho approfittato delle vacanze per perdere 4-5 kg, quindi potete lanciarmi con più facilità. Grande! Proprio non è proprio una piumina, però 4 kg sono tanti, ragazzi, bravo, ho bisogno di complimenti, bravo, infatti noi eccoli qui, bravo, proprio questo, ecco, se vuole l'applauso del mantenimento, però tra 3 settimane dobbiamo ancora essere nelle medesime condizioni, dottor Confa, ho ancora un poco meglio. Vedi? E allora tutti i segreti del dottor Franco Confalonieri, che ci farà anche un po' muovere, soprattutto ci darà delle attenzioni, perché ritorniamo al lavoro e molti di noi svolgono un lavoro che li costringe alla scrivania o in macchina, poi ci sono invece dei lavori che impegnano molto il fisico, ma domani noi ci occuperemo, perché lunedì di dieta non se ne parla, ma martedì magari un occhietto a quello che sono state le vacanze. Sicuramente tornerà il dottor Ongaro, tornerà il dottor Confalonieri, quindi se avete già delle domande da fare sul tipo di attività da scegliere, anche tutti quei consigli della nostra quotidianità, no? Che possiamo fare, come fare le scale, quanti passi fare, come evitare, no? La lievitazione del lato B, perché il lato B si schiaccia e lievita. Dottor Confalonieri, prima le lascio un minutino prima di andare ai mercati per farsi un autolancio, incuriosisca i nostri ascoltatori, li scateni, così li ritroviamo domani. Vada. Benissimo, allora domani vi aspetto per parlare di come inserire l'attività nel quotidiano in modo che non sia fonte di ulteriore stress ma sia fonte di piacere. Quindi come muoverci senza stravolgere le nostre abitudini, come utilizzare in modo ideale le nostre micropause, le nostre vacanze, riprendendo quanto diceva l'esperto precedente, e poi magari come stare un pochettino più attenti a quelle parti del nostro corpo, penso alla pancia, penso ai glutei in particolare, che per prime risentono delle attività, in modo che saremo un po' più in forma e anche un pochettino più belli. Se volete scoprirlo insieme a noi, non mancate domani. Ma dove l'abbiamo trovato questo? Guarda, nell'uovo di Pasqua. Magnifico, grande Confalonieri, buona giornata. Allora, domani, buona giornata a voi, buon lunedì, buona ripresa a tutti davvero. Grazie. E noi andiamo a vedere come riprendono. La borsa e i soldi, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. Allora, ce n'è ancora di settimane da aspettare prima che settembre termini, siamo appena all'inizio e, come abbiamo ampiamente detto nella prima parte della nostra Cuore e denari, settembre è il mese di ripresa anche... non solo per le, come dire, sfide per il nostro benessere, ma anche per le nostre riflessioni sugli impegni di carattere lavorativo, economico, finanziario e fiscale che ci aspettano, tali anche questi da farci vanificare rapidamente tutti gli effetti benefici delle ferie. E però ci dobbiamo responsabilmente rimettere la testa, quindi una volta che lo abbiamo fatto poi non ci pensiamo più. Questa parte di Cuore e Denari vi daremo alcune dritte, prendete agenda e penna e segnate tutto, poi a Natale faremo un bel consuntivo della situazione per vedere se tutte queste indicazioni le avete rispettate o meno. Allora, quali impegni fiscali ci aspettano da qui a Natale? Ne parleremo con il nostro esperto fiscale Luca De Stefani. Quali sono le più importanti sfide finanziarie nazionali ed internazionali che dobbiamo tenere sotto controllo per evitare che ci colgano di sorpresa noi e il nostro portafoglio? Ne parleremo con il collega di Plus 24 del Sole 24 Ore Vitaliano D'Angerio. E poi come dobbiamo fare un piccolo check-up del nostro bilancio familiare in modo da stilare anche in questo caso la lista dei buoni propositi autunnali. Se per esempio in vacanza avete sforato un po' il budget e adesso arriva l'estratto conto e il conto corrente è in rosso, come rimetterci in pista, come rimettere ordine alle nostre finanze? Ne parleremo con il nostro amico educatore finanziario Antonio Caglieri. Ti piace molto il parterre di ospiti che ho portato io? Allora, io naturalmente lo do il numero verde, se qualcuno è preoccupato per qualche, come dire, grana economico-finanziaria, certo, la può condividere con noi all'800 24 00 24, tre ospiti, uno che darà una risposta lo troveremo, che dici? Luca De Stefani, il Sole 24 Ore esperto fiscale, oltre che dottore commercialista, cominciamo subito a toglierci il sassolino dalla scarpa del fisco, che è meglio. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. E ben ritrovato anche a lei, peraltro anche il dottor Stefani già lavora da qualche settimana. Settembre è un mese pesante per i contribuenti, De Stefani? Sì, diciamo che vi è una scadenza importante che è quella dell'invio telematico, cioè la presentazione della dichiarazione di redditi e della dichiarazione IVA. Scade infatti il 30 settembre l'invio appunto telematico dei modelli unici per le società, per le persone fisiche. Diciamo che però generalmente questo impegno è a carico del commercialista. Sì, tipicamente, perché la scadenza magari più interessante per dipendenti e pensionati può essere quella del 7.30, che scadeva appunto il 7 luglio, con la proroga poi andata al 22 di luglio. Però può succedere che abbiamo anche dei contribuenti che si attivano e presentano il modello unico invece di presentare il modello 730. Un'altra scadenza importante sempre in questo mese è la comunicazione al proprio datore di lavoro o all'ente pensionistico della riduzione del secondo acconto IRPEF. In pratica, entro fine di questo mese, i contribuenti che hanno già presentato il modello 730 e questo prevede il pagamento di un secondo acconto a novembre, possono chiedere al proprio datore di lavoro di non trattenersi questo secondo acconto, perché prevedono ad esempio di avere un reddito più basso quest'anno rispetto a quello dello scorso anno. Quindi però bisogna avere la certezza appunto di avere questo reddito più basso, bisogna fare magari un po' un conto, quindi settembre è un mese anche. Entro quanto bisogna fare questa comunicazione al datore di lavoro? Entro il 30 di settembre. Entro la fine del mese. E quindi abbiamo già dato indicazione di alcune delle scadenze di questo mese a cui siamo chiamati, ma insomma io, De Stefani, stamattina in realtà ho pagato anche la Tari 2016 al Comune di Milano, tassa rifiuti. Avevo tempo fino alla fine del mese, però stamattina mi sono detta, sai che c'è, che me la tolgo. Pagano bene tutti, De Stefani? No, purtroppo per la Tari, a differenza dell'IMU e della TASI, abbiamo delle scadenze che variano per ogni singolo comune d'Italia, quindi mentre per l'IMU e per la TASI, che è la tassa per i servizi indivisibili, le scadenze tipiche sono il 16 giugno come primo acconto e 16 dicembre come secondo acconto, per la Tari, che invece è la tassa per l'asporto rifiuti, ogni comune ha delle scadenze autonome, quindi non tutti i contribuenti hanno questa scadenza in questo mese. Allora, abbiamo parlato di settembre, andando un po' oltre, invece dando così un po' uno sguardo, gettando uno sguardo alle sfide fiscali autunnali, De Stefani, ad ottobre che cosa ci dovremo preparare a versare? Ad ottobre non ci sono grossi adempimenti, diciamo. C'è a fine di novembre invece il secondo acconto IRPEF e IRES, IRA tradizionali, cedolare secca, contributi INPS, artigiani e commercianti, tutte le imposte praticamente del modello unico. Questo adempimento riguarda chi ha fatto il modello unico, quindi ha fatto il versamento con F24 in banca, chi ha fatto invece il modello 730, appunto, come si diceva prima, vi è l'addebito automatico tramite il proprio cedolino. C'è però una notizia da commentare che riguarda proprio il mese di ottobre, questa notizia di cui si è parlato molto nel corso dell'estate, perché l'Agenzia delle Entrate aveva più o meno fatto sapere di essere pronta ad inviare circa 200 lettere di 200? No, forse 100.000. Sono 2000, 220.000. Esatto, infatti mi sono perso uno zero, 200, esatto, lettere di accertamento sulle 7.30 appunto entro ottobre. Allora, intanto è già possibile stabilire, o quantomeno un contribuente può già tentare di capire se può essere il destinatario di questa missiva, De Stefani, oppure sarà una sorpresa per tutti quanti gli interessati? Come prepararci e cosa succede se dovesse arrivare? Ma andiamo per ordine, appunto. Posso già immaginare di stabilire di essere una dei destinatari? Certo. Allora, l'Agenzia delle Entrate sta aspettando i primi di ottobre, perché appunto con la fine di settembre viene l'invio telematico dei modelli unici e quindi tutti i contribuenti hanno fatto o il modello unico o il 730 e questi modelli sono già in ambito, sono già presso l'Agenzia delle Entrate. Il software, il cervellone dell'Agenzia delle Entrate fa i diversi controlli, confronta tutti i modelli Q, quindi le certificazioni che ha ricevuto dai datori di lavoro e dai dagli enti pensionistici e può accorgersi, ad esempio, che un contribuente lo scorso anno, quindi il 2015, ha avuto due rapporti di lavoro o tre rapporti di lavoro, ma non ha presentato nessun tipo di dichiarazione di redditi, né modello unico né modello 730. Se mi trovo in una situazione del genere, sicuramente mi arriva la lettera da parte delle Agenzie delle Entrate, in quanto manca il conguaglio, quindi dovevo sommare i due redditi, questi due redditi creavano un importo a debito e quindi l'agenzia quasi sicuramente si accorge. Le lettere previste per ottobre sono appunto, come scriviamo ieri, come ha scritto ieri sulle 24 ore, 220.000 e riguardano appunto i redditi del 2015. Come vediamo, quindi ci sono controlli veramente molto celeri ormai con la telematica. E ricordiamo che sono dei controlli, quindi qualora arrivasse questa lettera e siate uno dei destinatari di questa simpatica missiva dell'Agenzia delle Entrate, specifichiamolo di nuovo molto bene, De Stefani, non è contenuta una sanzione fiscale, non c'è nessuna multa, c'è solo una richiesta di accertamento, una richiesta di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che poi magari in futuro potrà sfociare anche in una sanzione fiscale, ma in questo momento, in questa fase, non lo è ancora. È corretto e quindi è un avviso al contribuente a mettersi in regola, quindi a ravvedersi, e in questo caso è possibile inviare, se non si è appunto inviato nessun tipo di dichiarazione precedentemente, una dichiarazione cosiddetta tardiva che va presentata dal 1 ottobre fino al 29 dicembre pagando una sanzione di 25 euro. Benissimo. In questa dichiarazione appunto vanno dichiarati i redditi che non sono stati dichiarati perché appunto non si è inviato nessun modello. Comunque, insomma, verso la fine di settembre, magari ad inizio ottobre, cominceremo a preparare il terreno su queste lettere di accertamento che l'Agenzia delle Entrate appunto è pronta ad inviare. De Stefani, ci ritorneremo su questi argomenti. Intanto grazie per essere stato con noi, a presto. Buona grazie, giornata. Arrivederci a tutti. Dal fisco andiamo alla finanza. Quali sono le più importanti sfide finanziarie, nazionali ed internazionali, che dobbiamo tenere sotto controllo per evitare che ci colgano di sorpresa? Noi e soprattutto il nostro risparmio, il nostro portafoglio. Vitaliano D'Angerio, Plus 24, Il Sole 24 Ore, anche ciao. Per lui poche ferie, quindi le indicazioni della tua parte, Nicoletta, per Vitaliano sono state. Ho una richiesta canora. Alberto Forti, settembre, invece degli Oasis. È già andato già nella prima parte. Me l'ha rubata Nicoletta. Piacerà anche a te. Te la rimandiamo. Bello. Guarda, adesso gliela facciamo preparare a Carmelo, perché se abbiamo anche questa. Facciamo le DJ adesso. Mi piace. A richiesta Vitaliano D'Angerio da Milano, a richiesta settembre. Da cuore denari. Eccolo là. Mi dirai. Hai avuto un momento nostalgico di gioventù. Sì, sì, sì. Adesso ci fa ballare però, eh. Eccoci qua. Sentite, allora. Devo tornare ai temi di risparmio, non so come dirvelo. Allora, facciamo una cosa, anche grazie così alla colonna sonora di Alberto Forti, se ricordiamo che poco prima delle vacanze è stata diffusa l'indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani 2016, rapporto Einaudi e Banca Intesa San Paolo. Sono emersi aspetti molto interessanti, in primo luogo si risparmia per far fronte alle incertezze, il risparmio per i figli supera quello per la casa, si risparmia troppo poco per la vecchiaia e poi... Con i tassi a zero, case e depositi liquidi polarizzano gli investimenti. Affrontiamo Vitaliano, poi fra un po' devo già... No, sai che faccio? Ci vado subito al traffico, che dici? Ma sì, dai. Me lo tolgo di torno, così poi ti faccio argomentare bene le risposte. Ripartiamo da qui, tassi di interesse a zero, cosa fare? A tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Cuore e denari. Questa va un po' meglio? La gradisci un po' di più? Assolutamente sì. Allora, tassi di interesse. I rendimenti dei titoli di Stato continuano a scendere sempre più in giù. Abbiamo l'incognita dei tassi di interesse americani dopo il dato sul mercato del lavoro di venerdì scorso, non proprio brillante come nelle aspettative. È probabile che a settembre ancora una volta i tassi americani non verranno toccati. E allora è una cosa che riguarda gli Stati Uniti, ma noi a che tipo di ripercussioni possiamo pensare per il risparmio delle famiglie, Vitaliano? Allora, per quanto riguarda i tassi americani, che dovrebbero essere, da quello che sappiamo, anche dopo Jackson Hole, questa riunione dei governatori in America, di tutti i banchieri Wyoming. Centrali in Wyoming, dovrebbero essere rialzati a dicembre. E questa cosa potrebbe essere una nota positiva per i risparmiatori, perché dopo tutto quello che si è detto sui tassi a zero e adesso poi diciamo insomma come fare, una quota del portafoglio, questo secondo gli esperti che abbiamo sentito su Plus 24, indicano nel dollaro e negli asset in dollari una possibilità di investimento, perché il aumentando i tassi di interesse americani si rafforza il dollaro e quindi si potrebbe diversificare proprio in asset in dollari per poter guadagnare qualcosa. Quindi potrebbe essere anche un fatto positivo, oltre che il negativo, per tutta una serie di cose che avete sicuramente detto. Sul sole ormai si dicono da giorni, insomma, perché poi c'è tutto un discorso di investimenti, di emergenti che vanno male. Vabbè. Certo, un buon assist comunque per la ripresa autunnale di Investire Informati. Ricominciamo giovedì. Nicoletta, c'è tra l'altro anche un altro soggetto che si è aggiunto al giro degli ospiti ricorrenti. Faremo molto lavoro sull'educazione finanziaria, lo anticipo già ai nostri ascoltatori, e proprio giovedì cominceremo, quindi questo è un punto interessante. Il secondo è proprio come abbiamo detto, la checklist, un controllo da fare a settembre quando si torna dalle vacanze. La prima cosa da fare è prendere l'estratto conto, perché le banche italiane, non tutte ma una buona fetta, stanno aumentando i costi per recuperare appunto una serie di spese. Alcune l'hanno proprio scritto, no? Noi dobbiamo aumentare i costi perché dobbiamo alimentare il fondo di risoluzione delle banche. Eccoci, è vero, ma lo destinano a questo, quindi praticamente lo paghiamo alcune noi. Alcune banche l'hanno messo nero su bianco, perché l'arbitro bancario, nel momento in cui tu aumenti i costi dei conti correnti, devi anche motivare perché lo fai. E alcune banche l'hanno scritto nero su bianco. Ottimo, un'altra bella puntata pronta, già me la vedo, Anna Vizzari qua di Altro Consumo, alla quale chiederemo di andare leggere con noi a suggerire che cosa dobbiamo andare a leggere se questo rigo ci fosse sfuggito. E questa è una cosa importante, quella delle spese, perché se abbiamo un po' di rendimento sul portafoglio, le spese che aumentano delle banche vanno a erodere, a mangiare appunto questo po' di rendimento che abbiamo sui conti. Senti un po', Vitaliano, banche, il capitolo banche è delicatissimo in questo momento. Allora, fra un po' intanto dovremo confrontarci con questo grande tema finanziario, aumenti di capitale di due grandi colossi, molti piccoli gli risparmiatori sono anche azionisti di Monte dei Paschi e Unicredit, e in ballo entro la fine dell'anno abbiamo queste due operazioni straordinarie sul capitale. Adesso cercheremo di capire cosa devono sapere i risparmiatori su questo, ma vorrei chiederti un riassunto della situazione anche sulla questione delle quattro banche risolte. Tra l'altro quella vicenda tra un po' compie già un anno e ancora non abbiamo ben capito se è partita ufficialmente la procedura dei rimborsi dei risparmiatori che avevano obbligazioni subordinate delle quattro banche salvate. A quanto ci risulta, alla Presidenza del Consiglio c'è un decreto in firma. Questo decreto, che è stato ampiamente anticipato, che cosa dice? In sostanza, chi ha di queste quattro banche risolte, che ricordiamo sono Etruria, Chieti, Ferrara e Banca Marche, chi aveva questi bond subordinati prima del 12 giugno, chi li aveva comprati direttamente dalla banca prima del 12 giugno 2014 e li deteneva al 22 novembre dell'anno scorso, riceverà in modo automatico l'80% di quello che ha versato. E però altre due condizioni: dovrà avere un reddito complessivo di 35.000 euro e un patrimonio o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro. Queste sono le condizioni. Esatto, e valgono come autocertificazione praticamente. Sì. In alternativa, chi non aderisce a questa o non ha le condizioni o non vuole aderire a questa proposta, dovrà rivolgersi all'ANAC attraverso la procedura arbitrale, e credo che in questo decreto, adesso non ricordo benissimo, ma nel decreto dovrebbero esserci indicate tutte le varie procedure per aderire all'ANAC. Comunque, insomma, la situazione è ancora variabile e mobile. Anche qua tema da affrontare subito, direi entro la fine del mese. Devo andare adesso al check-up del portafoglio, ma l'ultima indicazione sugli aumenti di capitale, Vitaliano, lo dobbiamo dare? Allora, Monte Paschi, vi è in corso una riflessione per quanto riguarda Monte Paschi sull'importo, perché per far scendere questo aumento di capitale da 5 a 3,5 è probabile una conversione in azioni delle obbligazioni subordinate. In mano al retail c'è 1 miliardo di obbligazioni. Ma probabilmente l'operazione di conversione riguarderà le obbligazioni che hanno gli investitori istituzionali o anche forse il pubblico? Non si sa ancora. Nodo. E vedremo poi che cosa farà Unicredit. Devo però andare subito ad un altro amico di Cuore Denari, Antonio Caglielli, che ho fatto studiare nel fine settimana. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buon anno a tutte. Ce l'abbiamo la canzone di Dal l'anno che verrà. Ecco, per Antonio Caglielli da Torino. No, qua proprio. Cioè, ormai non li tratteniamo più. Senti come più, l'ha detto. Possiamo. Possiamo. Ma, possiamo. Perché ormai stiamo tornando a fare i conti con la realtà. Ormai l'anno inizia a settembre. Non ce l'ho guardare. E infatti è quello, è il tema proprio che abbiamo affrontato nella prima parte. Allora, perché ho detto Nicola? Non perché... lo so perché. Antonio. Allora, Vitaliano D'Angerio ci ha detto, attenzione all'estratto conto quando arriva, perché ci sarà probabilmente la sorpresina prenatalizia di un aumento delle spese di tenuta conto, perché appunto la banca in questa maniera ci fa contribuire all'alimentazione del fondo, tra le altre cose, interbancario, il fondo di risoluzione, eccetera. Ma se questo conto è pure in rosso perché in vacanza abbiamo speso troppo, come correre ai ripari? Dacci subito l'ABC dell'educatore finanziario. Allora, prima di tutto siamo nelle settimane di uno spartiacque temporale, psicologico, per cui, come dire, abbiamo bisogno di ritrovare la concentrazione per portare a casa dei compiti che sono dove il livello di attenzione è un po' sotto la media. Allora, una delle cose che io suggerisco di fare, che vedo che funziona molto, è quello di scrivere i buoni propositi. Li scriviamo, li teniamo in vista e facciamo ancora un'altra cosa importante, li condividiamo con un amico, con un compagno di viaggio, perché un testimone, chiamiamolo così, che forse è meglio. Testimone, perché se questo impegno diventa pubblico, non rimane confinato, diciamo, al dialogo mentale interno, è probabile, lo dice un professore universitario, che porteremo a casa, diciamo, migliori risultati. Immagino proprio un compagno di viaggio, immaginate Snoopy per Charlie Brown. Snoopy cos'è? È un cane, non parla, però Charlie Brown ha benissimo presente tutti i suoi pensieri, riesce addirittura a farsi aiutare parecchio dalla sua presenza. E allora, la prima cosa, teniamo questi, e come dicevate prima, tracciamo i risultati. È importante, perché non dobbiamo scriverli e lasciarli lì, dobbiamo guardare periodicamente, anche Natale può essere un buon momento, una volta al mese, dedichiamo un po' di tempo, ne dedichiamo a cose, diciamo, sicuramente interessanti ma meno importanti, dedichiamo statisticamente molto tempo alla televisione, ai social, dedichiamo un po' di soldi. Voi lo ripetete qualche volta, la frase di Warren Buffett, nessuno si occupa dei nostri soldi come noi stessi, però dobbiamo occuparcene, no? Dobbiamo fare qualcosa. Allora, ho pensato questo, dobbiamo fare un momento di check-up. Innanzitutto, settembre è il momento spesso della frustata che arriva la carta di credito, alle vacanze. Ora, non demonizziamo la spesa in vacanze, perché è una spesa importante, le spese per esperienze sono quelle che ci arricchiscono, perché le esperienze senti come le ha rese dignitose queste spese, sì, le spese per esperienze, grazie. Antonio, ma guarda, quanto è buono lei. Sapete cosa, cioè, noi le esperienze, i viaggi, le attività, così, sono parte di noi, mentre le cose materiali restano separate da noi, ci danno un piacere, a volte ci riconosciamo l'identità, ma poi le perdiamo per strada. Invece noi siamo la somma delle nostre esperienze, quindi queste vacanze sono state importanti, siamo stati magari un po' deboli, ma magari sono stato un piccolo salasso, come... sono un salasso, ecco. Ok, allora, prima cosa, impariamo la lezione. Abbiamo fatto un errore, non abbiamo calcolato il costo, non il prezzo, il costo, cioè tutte quelle voci che concorrono a formare il costo della vacanza. Allora, impariamolo per l'anno prossimo, mettiamo a budget per l'anno prossimo una cifra adeguata, così non avremo le sorprese, perché le sorprese poi sono un elemento che ci dà fragilità, precarietà, meno sorprese ci sono e meglio è. Ma questa batosta, questa maggior spesa non si può recuperare in un mese, perché se non ci facciamo male, noi nelle nostre spese siamo come un TGV, anzi come il Frecciarossa, facciamo parlare italiano, un Frecciarossa in corsa, e non possiamo recuperarli in poco tempo, una questione di un po' di tempo, perché immaginate il Frecciarossa, se dal momento all'altro sparato a tutta velocità frena, cosa fanno? I frena di colpo e, come esatto, dire, i passeggeri, vengono sballottati tutti i passeggeri, si fanno male, diciamo. Quindi abbiamo bisogno di tempo e abbiamo bisogno di fare delle scelte, delle valutazioni su quello che facciamo. L'elemento principale da tutti individuato come la prima fase di analisi del bilancio familiare, la capacità di guardarsi, e quello io lo propongo attraverso un diario. Antonio, ci manca un minuto di tempo, andiamo agli altri suggerimenti pratici, poi gli argomenti in sospeso faremo un po' come il dottor Confalonieri, ti ripeschiamo anche nei prossimi giorni molto volentieri. Sì. Volentieri. Allora, diario finanziario, spese per categorie, quindi riusciamo a vedere quante ne abbiamo e poi cominciamo ad agire su queste categorie, ma senza... dandoci un po' di tempo. Noi vogliamo recuperare 1.000 euro in 3 mesi, bene, oppure c'è qualcuno che ha la fortuna di ricevere una tredicesima, Allora possiamo fare una cosa, visto che la tredicesima spesso viene un po' violentata dalle spese natalizie, ecco, possiamo già destinarla a recuperare quei soldi che abbiamo speso. Ecco, gradualità. Esattamente. Gradualità, sì. Insomma, perché sennò poi ci viene l'ansia di settembre qua, altro che no, trasmissione, no, ma no, no, per carità. Noi vogliamo fare il si pieno può gestire di benessere. Tutto, si può Dai. Gestire tutto con un po' di, appunto, educazione finanziaria. Il diario finanziario serve a questo. Grazie ad Antonio Caglielli, a Vitaliano D'Angelo. Grazie Antonio, ti risentiamo senz'altro presto, così come succederà di risentirci spesso con le pagine di Plus 24 con Vitaliano D'Angelo. Abbiamo terminato, ce l'abbiamo sì, fatta con serenità, dai, guarda, senza particolare sofferenza, e quindi torniamo anche domani, direi. Sicuramente, a buona domani. Giornata.